Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dove vanno a finire i soldi che da tutto il mondo vengono raccolti a sostegno dell'Africa? È la domanda alla quale cercano di rispondere due saggi di recente pubblicazione che ripercorrono il circolo vizioso delle donazioni per lo sviluppo del continente nero. Con un reddito pro capite attorno al dollaro al giorno, l'Africa subsahariana resta la parte più desolatamente povera del pianeta. È per questo motivo che gli aiuti allo sviluppo hanno sempre buona stampa. Vengono dispensati come l'elemosina sul sagrato della Chiesa. Non si fa caso all'efficienza, non si pensa che andrà a finanziare l'obolo. Si dona per levarsi un peso dal cuore. Ora che le buone intenzioni servono a poco è una dura realtà con la quale abbiamo tutti fatto i conti. Altra cosa è dire e spietatamente documentare che non solo servono a poco, ma anzi fanno proprio male. Dead Aid di Dambisa Moyo, sottotitolo Perché gli aiuti non stanno funzionando e c'è una via migliore per l'Africa, è l'ultimo saggio ad allargare una breccia aperta negli anni 50 da Peter Bauer, grande economista ungherese trapiantato in Inghilterra che per primo rilevò gli effetti perversi degli aiuti. Per Bauer, ricorda la Moyo, gli aiuti interferivano con lo sviluppo dal momento che il denaro finiva sempre nelle mani di pochi eletti, rendendo così gli aiuti un modo per tassare i poveri in Occidente per sussidiare le élite nelle ex colonie. Gli aiuti allo sviluppo sono un altro frutto della fucina di Bretton Woods, assieme con la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. La loro storia si intreccia con quella dei processi di decolonizzazione, fra sensi di colpa delle potenze in ritirata e il loro interesse a mantenere vivo un legame con gli ex territori africani. Questo avveniva vincolando le donazioni alla spesa per specifici beni e servizi prodotti da aziende dell'ex madrepatria. In questo modo, il foreign aid diventa una sorta di partita di giro. Il paese donatore è anche il beneficiario della sua generosità. È una delle ragioni per cui gli aiuti non escono dall'agenda politica di nessun paese occidentale. Ancora oggi, almeno in parte, essi significano lavoro per imprese selezionate politicamente. È la cassa del mezzogiorno su scala globale. Esistono altri modi nei quali i paesi donatori vincolano le loro erogazioni. Tanto quanto questo è vizioso, gli altri sarebbero virtuosi. C'è la selezione del finanziamento di uno specifico progetto o settore beneficiario e c'è pure la prassi di condizionare il sostegno all'adozione di determinate politiche. Soldi in cambio di democrazia. Moyo non è ottimista. Sostiene, citando uno studio della Banca Mondiale, che uno scioccante 85% degli aiuti allo sviluppo finisca impiegato per scopi altri che non quello per il quale erano stati concessi. Soprattutto, la scomoda verità è che la democrazia, lungi dall'essere un prerequisito della crescita economica, può danneggiare lo sviluppo dal momento che i regimi democratici faticano a produrre legislazione benefica sul piano economico, a causa della rivalità fra partiti e gruppi di interessi. Non è una considerazione molto popolare, ma esportando la democrazia c'è il rischio di eternare il sottosviluppo. Lo suggerisce anche il nuovo libro di Paul Collier, Wars, Guns and Votes, Democracy in a Dangerous Place. Convinto fino a tempi recenti che la democrazia in Africa avesse solo bisogno di tempo, Collier ora constata che le nazioni dell'ultimo miliardo sono in cul-de-sac. Elezioni competitive senza vincoli costituzionali frustreranno la cooperazione interna e la sovranità presidenziale frustrerà la cooperazione con l'estero. Quando la democrazia significa poco di più che le elezioni, è pericolosa per il processo di riforma. Sia Collier che Moyo evidenziano come la frammentazione etnica si infeudi nella forma partito e l'accesso al governo attraverso libere elezioni non ponga in essere un sistema nel quale le teste vengono contate e non tagliate. Al contrario, può facilitare la vittoria del gruppo etnico dominante, legittimandone paradossalmente le ritorsioni contro tutti gli altri. Per la Moyo, vincolare la concessione di aiuti alla garanzia di una competizione politica in Africa ha causato un solo effetto: moltiplicare le elezioni. Va detto che il dispotismo illuminato come alternativa è poco credibile, ma ciò che Collier e Moyo ci esortano a fare è smettere di attribuire eccessiva importanza a qualcosa, la procedura democratica, che al massimo è un dettaglio. Non è un dettaglio quello che Moyo definisce il circolo vizioso dell'AID. La concessione di aiuti dall'estero concentra risorse nel governo. Questa concentrazione di risorse crea dipendenza dallo Stato. I governi si trovano ad avere un potere più cospicuo, il potere corrompe, e la corruzione, a sua volta, rende opachi e difficili gli investimenti, consolidando la povertà. Non è un caso se, riporta Collier, in media l'11% del foreign aid finisce in spese militari. L'elite beneficiaria si arma per rimanere tale. Ma qual è l'altra via suggerita da Dambisa Moyo? Anche l'economista zambiana, dottorato a Oxford e 8 anni ai piani alti di Goldman Sachs, cerca capitali fuori dall'Africa. Non aiuti però, semmai investimenti. Moyo crede che i governi africani dovrebbero finanziarsi emettendo obbligazioni internazionali. La necessità di accedere ai mercati di capitale produrrebbe, essa stessa, good governance. Inoltre, paesi africani dovrebbero combattere il protezionismo agricolo occidentale, che li penalizza. E bisogna scommettere sul microcredito come leva per sviluppare l'imprenditorialità. Soprattutto però, per Moyo, sarà la Cina a salvare l'Africa. Bisogna accettare gli investimenti cinesi come un'offensiva gentile, senza remore nazionalistiche. Già ora rappresentano una rivoluzione silenziosa. In Dead Aid lo si spiega con un aneddoto. Nell'estate del 2005, un imprenditore, Lucas Landin, decide di fare in macchina tutta l'Africa, dal Cairo a Città del Capo. 5 settimane e 12.000 chilometri di viaggio attraverso 10 paesi. A dispetto di ogni ragionevole previsione, l'85% delle strade percorse da Landin era asfaltato e perfettamente come un'autostrada della California. A fianco, un rispettoso discreto. Questa strada è stata costruita con l'assistenza del governo della Repubblica Popolare Cinese. Dove ha fallito Bretton Woods, riuscirà Pechino. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberto Mingardi, Il circolo vizioso degli aiuti all'Africa, dal Riformista del 30 aprile. Il respingimento dei barconi provenienti dalla Libia ha provocato le reazioni dell'ONU, che era invece rimasta indifferente quando un paio di settimane prima Malta aveva negato il soccorso ad un barcone di profughi alla deriva nelle proprie acque territoriali. Ma anche le critiche mosse dalla CEI e dal PD non sono prive di contraddizioni, come sottolinea Sergio Romano dalle pagine del Corriere. Uno dei maggiori esponenti del Partito Democratico, Piero Fassino, dichiara che respingere i barconi non è uno scandalo. La Conferenza dei Vescovi Italiani disapprova il respingimento dei migranti e il resto di immigrazione clandestina. Il rabbino di Roma evoca il ricordo di una nave carica di ebrei a cui fu impedito lo sbarco sulle coste americane. E il Partito Democratico reagisce alle vicende degli scorsi giorni con un coro di voci discordi, da quelle di coloro che condannano il razzismo del governo o definiscono la sua politica scandalosa, a quelle di coloro che approvano, con sfumature diverse, la linea di Fassino. Tralasciamo la CEI e il rabbino. La prima rivendica la missione universale della Chiesa e parla, in ultima analisi, di se stessa e della propria vocazione. Il secondo è custode del passato ebraico e sente l'obbligo di ravvivare in ogni occasione la fiamma della memoria. Nell'una nell'altro hanno o avranno responsabilità di governo. Diverso invece è il caso dell'opposizione. Un partito che ha governato e si propone di tornare al potere non può limitarsi a sentenziare che le soluzioni del governo sono sbagliate, illegali e immorali. Deve contrapporre proposte utili e idee praticabili. Non può dire, ad esempio, che il problema deve essere affrontato e risolto negoziando accordi bilaterali per la restituzione dei migranti ai paesi di cui sono cittadini. La formula ha dato buoni risultati nei Balcani, dove gli albanesi avevano un evidente interesse a collaborare con il governo italiano. Ma è destinata a produrre risultati mediocri quando l'altro Stato, come nel caso di alcuni paesi nordafricani, controlla male il proprio territorio, ha una frontiera meridionale porosa ed è lieto di sbarazzarsi di persone che aggravano la sua situazione sociale. Il solo accordo che ha qualche possibilità di funzionare è quello con la Libia. È un bel accordo? No. Non ci piace che i migranti vengano inviati in un paese dove saranno trattati, nella migliore delle ipotesi, con una rude indifferenza. Non ci piace che il governo italiano abbia respinto in tal modo anche coloro che avevano il diritto di chiedere asilo. E il presidente della Camera ha fatto bene a ricordare che il problema non può essere eluso. Ma l'accordo con i libici, purché osservato da Tripoli, è il solo che abbia qualche possibilità di scoraggiare il traffico di carne umana sulle coste del Mediterraneo. L'opposizione non può dimenticare che l'Italia, come la Spagna, è il più esposto e il più vulnerabile dei paesi mediterranei. Siamo desiderabili perché siamo vicini, abbiamo un lunghissimo confine marittimo e apparteniamo al sistema di Schengen, vale a dire a una grande area in cui il controllo dei passaporti è stato abolito. Sperare che l'Italia possa difendersi dall'immigrazione clandestina con gli strumenti di cui si servono i paesi meno vulnerabili è un'illusione. Se può essere di qualche consolazione, ricordo che gli Stati Uniti adottano verso i profughi cubani, una categoria che dovrebbero trattare con particolare benevolenza, la stessa politica. Li accolgono se sono riusciti a sbarcare, li cacciano se vengono fermati in mare. Il Partito Democratico, quindi, non può limitarsi a criticare. Se vuole essere credibile, deve accettare l'ipotesi dei respingimenti, magari con maggiori controlli italiani e internazionali, sui campi dei rifugiati in territorio libico, o chiedendo, nello spirito delle dichiarazioni di Fini, che le domande d'asilo vengano raccolte e verificate in Libia. Gli sarà più facile, in tal modo, cercare di correggere quelle parti della legge sulla sicurezza che puzzano di xenofobia e rispondono alle idiosincrasie della Lega, piuttosto che alle reali esigenze del Paese. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Sergio Romano Tra ipocrisie e realtà, dal Corriere della Sera del 12 maggio. Letture di Radio 24. L'Italia è il paese che vanta il record di cause civili in Europa subito dopo la Bosnia. Ma la proverbiale lentezza della magistratura italiana causa ogni anno 2 miliardi di danni alle nostre aziende. E non mancano le differenze sostanziali tra una città e l'altra. Ad Enna, ad esempio, il tempo di attesa è 12 volte quello di Vercelli. La giustizia civile costa oltre 2 miliardi e 200 milioni l'anno alle aziende italiane, quanto una manovra finanziaria. È la stima dell'Ufficio Studi della Confartigianato. All'origine di questo enorme costo ci sono i tempi lunghissimi dei tribunali italiani nel decidere una causa civile, in media 4 anni, 7 mesi e 25 giorni, o un fallimento, in media 8 anni, 3 mesi e 25 giorni. Lo stesso tipo di causa civile, poi, dura in media 7 anni e 3 mesi, in Liguria, mentre in Trentino si risolve attorno ai 3 anni. E se si scende nel dettaglio, dei 165 circondari appartenenti a 29 distretti di Corte d'Appello, si scopre che a Enna la durata è di 7 anni, a Vercelli di 6 mesi. Il vero decreto competitività per le imprese italiane? Quello in grado di compiere il miracolo della giustizia civile. Perché alle aziende italiane l'inaffidabilità tempistica dei tribunali italiani nel decidere una causa civile o nello sbrogliare un fallimento costano quanto intere voci di una manovra finanziaria del governo, oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro l'anno. È la stima che l'Ufficio Studi della Confartigianato, dopo un primo esperimento 2 anni fa, ha ora aggiornato lavorando sui dati Istat del 2006 relativi alla lunghezza delle cause civili e sui numeri del 2007 per le procedure concorsuali. Uffa che noia, è l'usuale reazione nella quale rischia di incorrere la periodica litania dei tempi eterni, della mole di arretrato, della penuria di risorse e dell'inadeguatezza del personale salmodiata a ogni inaugurazione dell'anno giudiziario. Ma statistiche come queste, insieme ad altri indicatori concreti, possono forse cominciare ad accrescere in larghi strati di cittadinanza. In questo caso gli imprenditori, i dipendenti delle aziende, i fornitori, i clienti consumatori, la consapevolezza che il crack della giustizia non è un ritornello da svogliatamente riascoltare in sottofondo, ma una vera tassa occulta di circa 371 euro per azienda. Un'inefficienza che mette le mani nelle loro tasche anche se non se ne avvedono, un nemico che li insegue nella quotidianità, quando anche in vita loro abbiano la fortuna di non mettere mai piede in un tribunale. Non è ovviamente Confartigianato la prima a far notare i 4 anni, 7 mesi e 25 giorni di durata media di una causa civile tra primo e secondo grado, o gli 8 anni, 3 mesi e 25 giorni ai quali bisogna rassegnarsi in media per vedere come vada a finire un fallimento. E sono diventate ormai quasi proverbiali barzellette le meste collocazioni dell'Italia, 169esima su 181 stati, nelle classifiche della Banca Mondiale per durata media della procedura necessaria a far rispettare un contratto di valore doppio del reddito pro capite. Ma il senso della ricerca sta nel richiamo al fatto che, mai come nell'amministrazione della giustizia civile, il tempo non passa gratis. Per le imprese c'è il costo del ritardo di giustizia, calcolabile sia come oneri finanziari, relativi a un prestito bancario sull'importo dei titoli di credito rilevati regione per regione, sia come importo dell'attivo del fallimento, la cui durata influisce sulla perdita sopportata dalle imprese creditrici. Ebbene, sotto questi due punti di vista, la durata dei procedimenti civili, espressa come rapporto tra la pendenza media in un certo anno e la semisomma dei procedimenti sopravvenuti ed esauriti, moltiplicato per il numero di giorni in un anno, azzoppa le imprese italiane per poco meno di 1,2 miliardi di euro all'anno, mentre il costo causato dalla lentezza delle procedure concorsuali spinge le aziende a rivolgersi alle banche e a sopportare maggiori oneri finanziari per poco più di 1 miliardo. Il peggio è che una sorta di federalismo, che non c'è ancora nel paese, c'è invece già nell'autoreferenziale universo della giustizia negata. Ma è il federalismo più iniquo che si possa immaginare, cioè è la discriminazione delle condizioni di partenza della competitività per il solo fatto che un'azienda cerchi di recuperare un credito in una regione piuttosto che in un'altra, o confidi di attendere la soluzione di un fallimento in una città invece che in un'altra. Lo stesso tipo di causa civile dura in media 7 anni e 3 mesi in Liguria, quando in Trentino si risolve attorno ai 3 anni. E se dal piano regionale si scende al dettaglio dei 165 circondari appartenenti a 29 distretti di corte d'appello, la meraviglia per il divario scolora in conforto di fronte alla durata di una causa civile di primo grado 12 volte superiore a Enna, quasi 7 anni, rispetto a Vercelli, poco più di 6 mesi. Del resto, usando come lente territoriale la dimensione della provincia, ce ne sono addirittura 15 dove avventurarsi ad attendere l'esito di un fallimento significa mettere tranquillamente in cantiere il battesimo, la prima comunione e la cresima dei figli, visto che lì, da Nuoro a Reggio Calabria, da Lodi a Catania, da Vercelli ad Ascoli Piceno, la durata media supera i 12 anni. Più di 4 volte il tempo che per dirimere un fallimento viene impiegato a Trieste o a Olbia. A macchia di leopardo spuntano uffici giudiziari che, a dispetto della maglia nera in fondo alle classifiche, paradossalmente potrebbero indossare la maglia rosa di corposi miglioramenti percentuali rispetto al loro passato. Ma la media nazionale di una causa civile di primo grado, 2 anni, 6 mesi e 17 giorni, restituisce un dato negativo non solo nel riferimento assoluto, ma soprattutto nell'inversione di rotta che testimonia. Dopo 5 anni di leggere diminuzioni della durata dei procedimenti civili, i dati del 2006 appaiono peggiorati del 6,2%, cioè conteggiano appunto 54 giorni in più di lunghezza. E se solo la Campania è migliorata rispetto al 2005 di 73 giorni, meno 6,9%, i tribunali di Liguria e Basilicata hanno arrancato il 12,5% in più, le cause civili in Calabria sono durate il 18,2% in più e Valle d'Aosta e Puglia sono peggiorate di 210 giorni e di 382 giorni, che sul loro 2005 significa una debacle del 44,2 e del 34,7%. Stessa parabola negativa per i fallimenti, dove in 10 anni i tempi si sono allungati di ben 2 anni e 4 mesi, più 39%, raggiungendo la media di 5 anni, 11 mesi e 23 giorni. Facile e ricorrente gettare la croce addosso solo agli avvocati, che in Italia hanno un'incidenza sulla popolazione superiore dell'80% alla media di altri paesi europei. Confartigianato richiama dati europei per rilevare che per 100.000 abitanti ci sono 290 avvocati italiani contro i 266 spagnoli, i 168 tedeschi, i 76 francesi e i 20 inglesi, mentre 2 regioni da sole, Lazio e Campania, hanno più avvocati di tutta la Francia, 47.000. Più impopolare, però, è considerare anche la possibilità che i cittadini stessi, oltre che vittime della lentezza della giustizia, ne siano un po' complici laddove usino il tribunale come muro di gomma per difendersi dalle giuste pretese della controparte, fino a sfiancarla e costringerla a una transazione al ribasso. A consigliare di non cedere alla tentazione di indulgenti autoassoluzioni, infatti, sono i dati che su 100.000 abitanti rilevano in Italia ben 6.277 cause civili contro le 1.844 della Francia, le 1.787 della Spagna o le appena 661 della Germania. E con un piccolo sforzo l'Italia può ancora conquistare almeno un record europeo, proprio questo della litigiosità. In fondo, l'attuale medaglia d'oro, cioè la Bosnia-Erzegovina, con 6.817 cause civili per 100.000 abitanti, ci batte soltanto di una manciata di cause in più. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Ferrarella, La giustizia è lenta, pagano le imprese, dal Corriere della Sera del 12 maggio. La vita di una busta di plastica come oggetto utile, il tempo medio tra la cassa del supermercato e il frigo di casa, è di circa 12 minuti. Quella come oggetto inutile può andare dai 20 ai 200 anni. In Italia si consumano 2 miliardi di sacchetti al mese, 400 a testa in un anno, per un totale di 260.000 tonnellate, un quarto di quelle che si producono in tutta Europa. 500 milioni di euro il business. Meno di 3 buste su 10 vengono riciclate. Per fabbricarle viene consumato lo stesso petrolio di 160.000 automobili. Per smaltire, vanno nell'atmosfera 200.000 tonnellate di anidride carbonica. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Michele Smargiassi da Repubblica del 4 maggio.